120. Salsa verde che i francesi chiamano sauce ravigotte. Questa salsa merita di far parte della cucina italiana perché si presta bene a condire il pesce lesso, le uova affogate ed altre simili cose. Si compone di prezzemolo, basilico, cerfoglio, pimpinella, detta anche salvastrella, di qualche foglia di sedano, di due o tre scalogni e in mancanza di questi una cipollina. Poi un'acciuga o due se sono piccole e capperi indolciti. Tritate ogni cosa ben fine, oppure pestatela e passatela dall'ostaccio, indi mettetela in una salsiera con un rosso d'uovo crudo, conditela con olio, aceto, sale e pepe, mescolatela bene e servitela. Io la compongo con grammi 20 di capperi, il rosso dell'uovo e tutto il resto a discrezione.